A Bordo Campo di Dario Ricci. Oggi a Bordo Campo parliamo di Twitter, Facebook, social media legati al mondo del calcio, perché insomma questa è la nostra nuova schiavitù, no? Essere costretti, ma è anche un piacere, a seguire sui vari profili Facebook, sulle varie twittate dei campioni del calcio nostrano, perché anche quando la riserva della squadra di Serie B ci dice che oggi si è allenato e ci dà la buonanotte, tutto sommato ci sentiamo più tranquilli come tifosi e soprattutto anche come operatori dell'informazione sportiva. Beh, il fenomeno è sicuramente più serio e merita ulteriori approfondimenti che arrivano in un prezioso libretto dal titolo New Media and Digital Football, edito da Sport Economy, e un libro scritto a sei mani, perché ci sono quelle di Daniele Chieffi, che è il digital media di Unicredit, quello di Cristiano Abswalner, che è responsabile sponsorship di Team, e quelle soprattutto del direttore di Sport Economy, Marcel Vulpis, che è oggi il nostro ospite. Benvenuto Marcel. Grazie a voi. Beh, insomma, libro a sei mani e tanta la composizione della squadra così numerosa è giustificata dal fatto che il fenomeno Twitter, Facebook e social media sta diventando sempre più importante nella composizione del business calcistico dei grandi club europei, vero? Assolutamente, i club di calcio stanno cercando di trovare nuove strade per coinvolgere i propri tifosi. Sono quelle che tecnicamente si chiamano le tecniche di engagement, quindi di coinvolgimento del tifoso. Considerato che il tifoso non sempre ormai va più allo stadio, quindi le modalità di fruizione dell'evento sono le più disparate, quindi partendo dallo stadio, e lì probabilmente è il tifoso più caldo, quello più vicino alla squadra, ma poi c'è la possibilità appunto di seguire la squadra del cuore attraverso i mobile devices, quindi attraverso i tablet, attraverso i PC, gli smartphone, attraverso chiaramente la televisione a pagamento e non. Quindi le modalità di fruizione sono tante. Una delle nuove modalità, ormai da due o tre anni consolidata, è sicuramente l'utilizzo dei social media, quindi stanno crescendo, stanno nascendo nuove pagine sempre più ricche, sempre più interessanti in termini di contenuti, di foto, di immagini, di primizie per i fan, quindi per i tifosi dei club di calcio. In questo libro abbiamo cercato di mettere una pietra miliare per far capire esattamente come questi club stanno utilizzando lo strumento dei social e dei new media. Non era mai stato fatto in Italia e in Europa, quindi è innanzitutto un'opera interessante da questo punto di vista, perché è una prima bandierina che noi mettiamo sul territorio appunto della digitalizzazione del business calcistico, e lo facciamo partendo dal mercato italiano, ma andando anche ad analizzare, quindi a valutare quello che accade in altri campionati, dall'Europa per andare anche nel resto del mondo. Ecco, senti, anche in questo campo siamo indietro rispetto a Premiership, Liga e Bundesliga? Sì, siamo indietro perché, come anche avvenuto in altri settori, faccio uno in parallelo come il merchandising o dei diritti televisivi, siamo arrivati con un po' di ritardo, quindi gli altri club sono partiti mesi o anni prima rispetto a noi, e quindi questo gap temporale non è facile da recuperare. Ci sono poi dei club come ad esempio il Milan che però stanno recuperando molto velocemente questo vuoto che c'è con soprattutto i top club a livello europeo, tant'è che proprio in questi mesi, queste settimane, il Milan ha superato ampiamente gli 11 milioni di tifosi e quindi è fra i primi 5 top club, se parliamo di Facebook, in termini di likers, cioè di coloro che spingono il pulsante su I like, quindi sulla fan page del proprio club, e quindi fa capire come il Milan sta investendo in modo continuo e attraverso anche una fortissima alleanza con il proprio advisor commerciale che è Infront, che al tempo stesso è il partner su tutto quello che può essere la piattaforma di contenuti multimediali del Milan. È indicativo che una delle comunità più attive sulla pagina di Facebook del Milan, ad esempio, sia quella indonesiana. Immagino che allora da indicazioni di questo tipo possano poi derivare tournée estive in Indonesia, anche se è un po' umido là da quelle parti in quel periodo. E questo fa capire le potenzialità appunto dei social media, perché sono degli strumenti interattivi che in tempo reale ti danno anche il polso della situazione, quindi è molto probabile che il Milan ad esempio nei prossimi mesi andrà a studiare delle nuove strategie proprio per quei mercati che stanno rispondendo di più in termini di social media e new media e in termini anche di comunicazione attraverso queste nuove piattaforme multimediali che sono state appositamente costruite. Gli altri club italiani però devono cercare di recuperare anche loro posizioni, perché forse sono un po' più dormienti rispetto al club rossonero. Ecco, ma quanto può costare a un top club come il Milan, la Juventus, l'Inter, sviluppare una strategia vincente? Perché l'altro grande mito che ormai è stato sfatato è che questi social network quasi si alimentino da soli. In realtà ci vuole una struttura che quindi inevitabilmente ha dei costi. Quanta parte del budget disponibile, del capitale sociale, delle risorse deve essere indicativamente destinata allo sviluppo di questi new media? Credo che attendere la parte del budget, del marketing, della pubblicità che dovrà essere destinata a quest'area di comunicazione non dovrà essere inferiore al 20-25%, ma con l'obiettivo di crescere ulteriormente, perché tanto è inutile andare contro quelle che sono le nuove tendenze della popolazione. Noi oggi in Italia abbiamo un pubblico, ad esempio a livello televisivo, soprattutto se parliamo di Rai, per esempio, molto anziano, tendenzialmente di età avanzata, ma tra 10-15 anni questo stesso pubblico di età avanzata non ci sarà più probabilmente, e quindi anche il modo di fruire la televisione sarà differente, quindi i club dovranno non solo monitorare quello che sono le nuove tendenze, ma anticiparle, quindi creare loro i bisogni prima ancora che questi bisogni diventino manifesti nella testa o nel cuore del tifoso. Questa secondo me è la sfida del futuro. Dal punto di vista dei contenuti, invece, quali saranno gli sviluppi prossimi di social network come Facebook o Twitter? Ad esempio, abbiamo tutti i nostri computer pieni di twittate del tipo oggi doppio allenamento, sono stanco, buonanotte. Contenutisticamente è un po' poco per soddisfare anche il tifoso più sfegatato. Da questo punto di vista, che calcio dobbiamo aspettarci nel prossimo quinquennio? Sicuramente un calcio più ricco, con una maggiore integrazione tra la comunicazione personale del football player, quindi del calciatore, e quella del club, e quindi anche con una ristrutturazione o riconversione di quelli che sono i diritti di immagine che in questo momento sono in capo al calciatore, che vengono o gestiti totalmente dal calciatore stesso a livello individuale o attraverso agenzie di consulenza, ma anche nel rapporto che può nascere con il club stesso. Quindi il club secondo me deve essere l'anima guida della comunicazione anche del calciatore, perché comunque il calciatore, fin tanto che gioca all'interno di quel club, è un elemento bandiera per il bacino d'utenza e quindi rappresenta il club stesso. Quindi da questo punto di vista nessuno più del club può riuscire a valorizzare in termini anche contenutistici quelli che sono le emozioni, i valori che sono all'interno della testa e nel cuore del calciatore stesso. Ti chiedo ancora, Marcel, quali sono i top club in quest'ambito in Europa e quali le realtà emergenti, quali quelle 2-3 squadrette che potrebbero vincere qualche scudetto almeno virtuale nei prossimi anni? Allora, se guardiamo il caso italiano, c'è una forte crescita dell'AS Roma, che ha superato ampiamente il 1.200.000 utenti di fan sulla pagina di Facebook. È stata una vera e propria esplosione social, tra l'altro il tutto è avvenuto nell'arco di 9 mesi, quindi dalla partenza, anche meno di 9 mesi, dalla partenza della nuova cordata americana che è diventata proprietaria del club. Da un punto di vista invece internazionale si conferma il binomio Barcellona-Real Madrid con oltre 25-23 milioni di utenti su Facebook, subito dopo c'è il Manchester United, oltre 20 milioni, poi altri club inglesi come appunto il Chelsea, che ha vinto la Champions League e che proprio grazie alla Champions League ha superato di poche centinaia di migliaia di utenti sulla pagina Facebook il Milan. Poi però c'è una crescita molto forte dei club turchi, quindi parliamo di Fenerbahce, Besiktas, Galatasaray, e anche dei club brasiliani, che sicuramente andranno a sfruttare al massimo i prossimi due anni, che poi avvicinano questo mercato, quello brasiliano, a un altro grande evento sportivo che sono i mondiali di calcio. Quindi ci sarà sicuramente una forte attenzione del mondo su quel mercato e sui club più rappresentativi di quel calcio, oltre che chiaramente sulla pagina Facebook della nazionale della Seleção brasiliana. Quindi da questo punto di vista la concorrenza ormai non è più all'interno dei confini nazionali, ma è esclusivamente una concorrenza fra top club nel mondo, dove l'obiettivo è intercettare la passione, l'emozione delle persone prima che la stessa passione o emozione venga catturato da un club rivale. È una guerra all'ultimo tweet o all'ultimo post. E allora grazie a Marcel Vulpis per questo volumetto importante, New Media and Digital Football, edito da Sport Economy, testata di cui Marcel è il direttore. Insomma, Marcel, grazie per essere stato nostro ospite. A questo punto ti do appuntamento sul blog di A Bordo Campo, visto il tema. Assolutamente, io vi aspetto sul portale, perché l'altra caratteristica del libro, scritto con Abel Vanne e Chiezzi, che essendo un prodotto web viene assolutamente venduto solo sul portale, quindi attraverso l'e-commerce, proprio per caratterizzare ancora di più questa tipologia di opera. E allora grazie Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy, per essere stato oggi il nostro ospite qui a Bordo Campo. Un saluto a voi, grazie. Ora una breve pausa, poi ancora insieme qui a Bordo Campo. A Bordo Campo. Nuova stagione di A Bordo Campo e ci piace ripartire anche dal basket, che lo sapete è il nostro grande amore, un po' di tutti qui a Radio 24, ed è quello che si preannuncia un appuntamento, due appuntamenti da circoletto rosso su qualsiasi agenda di qualsiasi appassionato di pallacanestro, perché sarà un inizio ottobre scoppiettante per la nostra pallacanestro che rincrocia i maestri dell'NBA. Ebbene, prima è arrivato l'annuncio della visita il 7 ottobre dei grandi Boston Celtics al Mediolanum Forum di Milano contro l'Emporio Armani Milano, in una sfida che mette insieme qualche decina di titoli nazionali e soprattutto tanto prestigio, e anche sarà interessante vedere sul parquet italiano i nuovi Celtics. E poi è arrivata la notizia di Siena, che sarà la prima squadra italiana a disputare una tournée di più partite negli Stati Uniti contro squadre NBA. La Montepaschi, pluricampione d'Italia, giocherà il 6 ottobre a San Antonio contro gli Spurs e l'8 ottobre a Cleveland contro i Cavaliers. In passato, vale la pena ricordarlo, avevano attraversato l'oceano per andare a giocare dei singoli incontri la Tracer Milano, campione d'Europa, che nel McDonald's Open dell'87 fu sconfitta 123-111 dai Milwaukee Bucks, e la Benetton Treviso, che nel 2004 perse in volata 86-83 la Naismith Cup in casa dei Toronto Raptors. In calendario del 2012 dell'American Tour, l'iniziativa di Eurolega ed NBA che dal 2006 porta negli States le squadre europee, sarà poi ufficializzato prossimamente. Come abbiamo detto, poi sempre in quei giorni ci sarà la visita dei Boston Celtics qui a Milano, visita che sarà un po' la ciliegina sulla torta di una 3 giorni di grandi iniziative legate alla passione per il basket NBA. E allora, proprio a questo proposito, abbiamo intervistato la direttrice di NBA Italia, Katia Bassi, a cui abbiamo chiesto anche una curiosità: l'ultima volta che i Celtics sono venuti in Italia era il 2007, poi arrivò l'anello NBA. Sembra quasi che Boston abbia quasi richiesto di tornare nel nostro paese, visto che quel ricordo è rimasto dolcissimo nella memoria di tutti i tifosi dei trifogli biancoverdi. Sentiamo Katia Bassi. Ma infatti ci abbiamo riso poi, soprattutto dopo le performance dei playoff, eccetera. In realtà è stata proprio una richiesta anche da parte nostra. I Celtics amano molto l'Italia, quindi vengono con grande piacere, ma altrettanto nasce proprio da una nostra esigenza, perché volevamo portare una franchigia che fosse di grande attrattiva per il mercato italiano, e i Boston Celtics lo sono definitivamente. Ancora una volta a Milano, dopo l'esperienza dei Knicks di 2 anni fa, segno anche che la città si pone al centro del dialogo tra Europa ed NBA. Ma naturalmente sì, devo dire che Milano poi beneficia di un palazzetto che comunque insomma può ospitare certamente un certo numero di persone, per cui da questo punto di vista sì. E poi non possiamo dimenticare la piazza, perché Piazza Duomo è straordinariamente performante da questo punto di vista, quindi noi dovevamo guardare anche a quei tifosi che purtroppo non potranno acquistare i biglietti per la disponibilità numerica esigua. Direi importante l'arrivo dei Celtics anche per ribadire il legame forte che c'è tra NBA ed Europa. Si parla spesso di franchigie europee eccetera eccetera, poi nei fatti c'è soprattutto un NBA che quotidianamente cura alcuni aspetti del rapporto tra basket e città. Ad esempio so che siete direttamente impegnati in alcuni progetti qui proprio a Milano. Sì, assolutamente. Beh, noi utilizziamo proprio il sistema, il format classico NBA, quindi in ogni città in cui andiamo a svolgere le nostre attività, che sia una partita o che siano semplicemente degli eventi, tendiamo a appunto parlare anche di social, quindi con NBA Cares, è quello con cui stiamo sicuramente lavorando con la città di Milano, quindi anche quest'anno ci sarà una bella sorpresa come ci fu nel 2010 con il campo vivibile di Quarto Giaro. Un'ultima domanda: c'è un filo rosso che lega questi NBA Europe Tour con quelli che negli anni 80 ci fecero scoprire il pianeta NBA? Allora questo confronto sembrava quasi impossibile, oggi ogni tanto si vince e soprattutto c'è una ricaduta in popolarità che vale più di qualsiasi canestro. No, infatti, ma assolutamente sì, c'è proprio più di un fil rouge, abbiamo recuperato questa tradizione, poi naturalmente con il tempo e con le nuove tecniche digitali ovviamente vanno a cambiarsi un pochino i format. Europlive è proprio questo, cioè anche la voglia di tornare in Europa e con le squadre appunto NBA mostrare quale sia l'affezione per il mercato europeo, perché ricordo che stiamo crescendo sì in Italia ma davvero in tutta Europa da questo punto di vista, quindi c'è una grandissima voglia di venire e di incontrare finalmente i tifosi, perché non vogliamo essere visti come una lega che ha il suo core business negli Stati Uniti, punto, ma in realtà un brand internazionale come davvero lo siamo. NBA che è sicuramente un brand internazionale, partita che è anche occasione di show business, ma che è anche e soprattutto occasione per rinsaldare il legame tra la pallacanestro italiana e quella statunitense. Ebbene, chi meglio del nostro amico Flavio Tranquillo per provare a ricostruire questo legame e anche quelli che possono essere i suoi sviluppi futuri? Sentiamo. Sì, sicuramente una semi-investitura, poi non credo che sarà difficile trovare quella che gli americani chiamano storyline, perché la storia appunto dei due club è talmente al di sopra di ogni sospetto che già di per sé è un motivo di interesse. L'altro motivo di interesse è vedere come cambieranno tra qui e 7 ottobre le due squadre, e vederle in campo sarà sicuramente un primissimo momento di verifica. Certo, non sappiamo se ci saranno i Big Three o i Big Four, sicuro l'elemento d'attrazione in questo momento è Rajon Rondo, sicuramente come cambieranno i Celtics sarà lui il punto di partenza o di ripartenza, e già questo vale il costo del biglietto. Sì, quello, e aggiungerei Doc Rivers. Quando i Celtics hanno formato i Big Three nel 2008, la prima partita che hanno giocato l'hanno giocata in Italia, a Roma, e quei giorni romani per Rivers sono stati fondamentali, perché ovviamente fai più vita in comune rispetto a quella che fai a casa tua. Non credo che i Celtics riusciranno a fare una squadra così potente, al massimo potrebbero riconfermare quella che hanno, però sono invece sicuro che Rivers utilizzerà i giorni milanesi proprio alla stessa maniera, e sarà molto interessante cercare di rubargli qualche mossa psicologica, visto che da un punto di vista psicologico assieme a Popovic è nettamente il numero uno nell'NBA. 1987 l'allora Tracer sfidava i Bucks a Milwaukee, e adesso Milano ritrova i Celtics dopo aver ospitato i Knicks. C'è un filo rosso che lega questa esperienza in un basket che è mondiale, che è cambiato profondamente? Sì, c'è, però io vado ancora più indietro, vado alla prima partita che è stata data di NBA in televisione in Italia, era sicuramente il 31 gennaio, credo 1980, e c'erano i Celtics. I Celtics ci sono sempre, Milano c'è stata spesso, è interessante vedere come tra l'87, il 99 al Forum ancora, il 2010 e speriamo il 2012 c'è un processo evolutivo, lento, ma sicuramente sono esperienze una diversa dall'altra. Poi magari stavolta coach Scariolo, che con la Scavolini c'era andata un passo contro i Knicks a Madrid, stavolta la vince. Ha vinto con Malaga, senz'altro il risultato è molto interessante ed è molto meno scontato di quello che sarebbe magari 3 mesi dopo ottobre con le regole NBA. Giocarlo a ottobre con delle regole miste sicuramente permette a Milano di giocare anche per provare a vincere, e uno dei motivi di interesse non sarà naturalmente l'Armageddon, il giudizio universale, però un po' di curiosità ce l'abbiamo tutti. Parecchia curiosità per vedere questa triplice sfida ai big dell'NBA, che ci aiuterà anche a fare il punto su quello che è il nostro basket e quello che è il futuro della nostra pallacanestro. E qui a Radio 24, come sapete, non solo a bordo campo per approfondire questi temi, ma soprattutto palla a spicchi tutti i venerdì e poi la domenica sera con le storie dell'NBA e del campionato. Per a bordo campo di oggi è tutto, grazie a Matteo Comes in regia. Potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it e riascoltarci sempre dal nostro sito web e sempre sulla nostra pagina web, dialogare con noi attraverso il nostro blog. L'appuntamento, come d'abitudine, per domenica prossima alle 14.30 e in replica il sabato mattina alle 6.30. Un saluto e buona giornata da Dario Ricci.